tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e con me c'è Marco. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Ritorniamo a parlare di Palestina, questa volta però dal punto di vista delle arti, di cosa la musica può fare e cosa la musica può smuovere. E per farlo siamo con le musiciste Laura Agnusdei e Agnese Banti, che hanno curato una raccolta di brani per la Palestina dal titolo Bologna for Palestine, uscito in digitale ed in cassetta grazie alla Maple Death Records. Io saluto Laura e Agnese. Ciao. Ciao Salvatore, grazie dell'invito. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Partiamo subito proprio con la prima domanda. Qual è la genesi di Bologna for Palestine? Allora, Bologna for Palestine è un nome che raccoglie tante iniziative, nel senso che è prima di tutto una serie di eventi, il primo dei quali è stato a dicembre dell'anno scorso, pensato da Flavia Zaganelli, che è una delle ragazze che appunto fa parte del nostro collettivo, e che ha proposto la proiezione di un film che si chiama 20 metri. E praticamente si è svolto ad AS, Dispositivo Arti Sperimentali, che è una venue di Bologna. E quindi, diciamo, il primo evento è stato a tema cinema e io e Agnese ci siamo semplicemente unite a quest'idea di Flavia, selezionando degli ascolti da artisti appunto di musica palestinese oppure appunto musica solidale, diciamo, con la CAP. Da questo primo evento è nato un po' appunto questo gruppo di principalmente quattro persone, che siamo io, Agnese, Flavia e Elena Mattioli, che è appunto una videomaker, artista, che fa parte del collettivo Lele Marcoianni e anche appunto del collettivo che gestisce lo spazio di DAS. Abbiamo pensato poi un secondo evento a gennaio, che invece fosse, diciamo, a sfondo musicale. Subentro io. L'idea di questo evento era un po' quello di fare un appello, diciamo, alla comunità di musiciste e musicisti bolognesi, o comunque con base a Bologna, e creare un evento solidale che in qualche modo anche in un momento in cui la solidarietà era anche un po' meno diffusa, diciamo, a gennaio, di dire, ok, noi vogliamo dire che la nostra posizione è questa, che siamo solidali con la popolazione palestinese e lo facciamo attraverso la musica, cioè quello che sappiamo fare. E quindi, diciamo, abbiamo diffuso questa idea fra appunto amiche, amici, colleghe e colleghi, musicisti e musiciste, e nel giro veramente di una settimana siamo riusciti a mettere su un gruppo di 17 musicisti e musiciste, ed è venuta questa idea di fare una staffetta musicale, e quindi un live senza interruzioni, che quindi è durato quasi 3 ore, e che è andato in streaming sia su Radio Alara, quindi da Betlemme, sia su Fango Radio. E abbiamo fatto questa staffetta che consisteva in soli, duo o anche tri, che praticamente si passavano la palla. Diciamo, a livello di organizzazione dello spazio c'era un lunghissimo tavolo, il live è iniziato, diciamo, dall'inizio del tavolo ed è finito con la parte opposta, diciamo. E da questo live, che poi è stato una sinergia di tante cose, perché ovviamente poi ne abbiamo fatto la registrazione, abbiamo avuto l'aspetto visivo che è stato curato da un'altra artista che fa base a Bologna, che è Maria Gloria Posani, insomma c'è stata una sinergia di tanti aspetti, e alla fine, dopo aver fatto questo live, che è stato veramente tanto partecipato, perché è stato proprio un'esplosione di persone per noi inaspettata, è stato un bellissimo momento, diciamo, anche per la comunità bolognese, si vede che abbiamo proprio intercettato una necessità di anche di schierarsi da parte delle persone della comunità, e quindi è stato un live molto partecipato. Diciamo che è venuta poi l'idea con Maple Death Records di farne una piccola release. Per continuare anche la raccolta fondi, perché tutti questi eventi di cui stiamo parlando ovviamente sono anche finalizzati a raccogliere appunto dei soldi. E nel primo evento abbiamo raccolto per Medical Aid for Palestine. E il 13 gennaio, appunto, nell'evento della staffetta che abbiamo chiamato Non Stop Elettroacustiche Improv, abbiamo raccolto dei soldi che abbiamo donato direttamente a Mansour Schumann, che è un giornalista, appunto, che ai tempi era anche proprio sul campo e coordinava una serie di aiuti umanitari, in particolare i soldi che abbiamo raccolto noi, una bella cifra di 3.000 euro, 1.500 raccolti in presenza durante l'evento e poi altri 1.500 più o meno raccolti sulla scia dell'entusiasmo online nei giorni successivi. E sono andati direttamente alla comunità di Khan Yunis, appunto, che in quel momento si trovava sfollata e sotto attacco. E quindi la cassetta, che poi è uscita ad aprile, per il terzo evento che abbiamo fatto per finire la carrellata, poi parleremo anche delle cose future, però appunto nel nostro storico c'è anche questo terzo evento in cui invece abbiamo deciso di ospitare proprio un artista palestinese, il producer Jules Mood, da Ramallah e sempre da Das, e anche quello evento di raccolta fondi che ha visto sia l'uscita della cassetta che poteva essere comprata appunto all'ingresso per continuare le donazioni e sia appunto poi appunto c'è stato il live di Jules Mood, ma non solo, c'è stata anche una installazione audio-video una coreografa palestinese, Farah Saleh. Esatto. E abbiamo ospitato anche una piccola esposizione di Drawing for Palestine, che è un altro collettivo di illustratori e illustratrici che vendevano le loro alcune opere sempre appunto in beneficenza. E abbiamo ospitato anche nella stessa serata una campagna di raccolta fondi per l'UNRWA, e appunto con queste donazioni simboliche che miravano a appunto riaccendere, diciamo, i finanziamenti italiani che erano appena stati sottratti dopo appunto queste notizie che alcuni dei membri dell'UNRWA sarebbero stati dichiarati affiliati ad Hamas. Insomma, il periodo era quello lì. E per finire appunto la questione delle donazioni, appunto abbiamo donato 500 euro di ESIM per il progetto Connecting Humanity. Per chi non lo sapesse, le ESIM sono questo metodo, diciamo, in cui si possono comprare online dei metodi di connessione che aiutano la popolazione a star connessa in questo periodo di difficoltà. E invitiamo a continuare a donare perché ce n'è sempre bisogno, molti anche dei giornalisti sul campo utilizzano questa metodologia e poi abbiamo donato e continuiamo a donare, quindi anche se si compra la cassetta in digitale ce ne sono ancora alcune poche, ma ci sono alcune copie, e i fondi vanno a Gabu Sittau Children's Fund, che è appunto un medico inglese palestinese che opera bambini in Libano e si adopera insomma per dare assistenza soprattutto chirurgica. Sì. Quindi dovremmo aver detto più o meno tutto di quello che è stato fatto. Le donazioni sono ancora aperte, vero? Sì. Assolutamente, tramite, diciamo, l'acquisto ancora delle poche copie fisiche e assolutamente di quelle digitali, è sempre aperta la raccolta fondi su Bandcamp di Maple Death e appunto i soldi raccolti tramite la cassetta vanno alla fondazione del medico Ghassan Abu Sittau, è ancora aperta. Ricordo che il sito è mapledeathrecords.bandcamp.com, dove poter trovare la cassetta e quindi fare la donazione. Se possiamo aggiungere una cosa, certo. Nel senso che appunto abbiamo iniziato parlando della cassetta, la cassetta è... non è esattamente una raccolta di brani, ma è una selezione di estratti dei momenti appunto di questa maratona non stop che abbiamo, diciamo, scelto e curato poco dopo che abbiamo appunto fatto il concerto, e quindi questa selezione è un po' degli highlights, possiamo dire, di quello che è stato invece una grande appunto staffetta musicale non stop. Un po' più un mixtape, diciamo, appunto che è una raccolta di brani da studio, però riflette bene anche, ci sono anche dei momenti in cui si sente anche il pubblico, riflette bene un po' l'energia insomma della serata. Sì, perché è durata 3 ore, se ricordo bene, vero? Esattamente. Sì, esatto, è iniziata tra l'altro con la lettura di questa lettera appunto Italian Arts United Against Genocide, e quindi c'è anche un piccolo estratto iniziale della voce di Agnese che appunto legge questa lettera e che appunto abbiamo usato anche come statement per unirci comunque a un fermento che va al di là del mondo della musica, ma tutte le arti, sì, tutto il mondo artistico italiano si è, soprattutto quello, diciamo, underground, si è schierato e noi ci siamo unite anche a questo appello. What state would have did the Deutschen sign up to? Allora, volevo chiedervi questo. I vostri colleghi artisti come si sono approcciati a questo tipo di evento? Noi, cioè, la domanda, diciamo, è perché ci chiediamo quale sia, siamo partiti dal chiederci qual è l'impegno del mondo delle arti verso questa situazione in Palestina e quale potrebbe essere. E a parere vostro, le arti in generale cosa stanno producendo in questo momento riguardo a questa situazione? Guardando intorno, insomma, nel vostro quotidiano. Allora, l'approccio dei nostri, diciamo, amici, amiche, colleghi è stato, cioè ognuno ha portato un po' quello che si sentiva, appunto, in un flusso molto spontaneo. E che chi ascolta la cassetta di sicuro si accorge che è molto varia, quindi passa da momenti più noise, elettronici, che riflettono anche forse nella loro crudezza, no? Cioè un sentimento di rabbia, potremmo dire, a chi ha portato poesie, cioè una lettura comunque ad esempio di Guglielmo Pagnozzi, che appunto legge un... Fadwa Tuqan, che è appunto un poeta palestinese. E, poi una delle mie tracce preferite è Kat dei So Beast, che appunto fa un live con solo la voce, e con dei testi molto, molto belli, significativi, appunto, che secondo me riflettono un po' anche lo stato ansiogeno, no? Che si respira. Secondo me forse ci si è mossi un po' tardi, cioè noi abbiamo cercato di essere reattive fin da subito, però secondo me questo discorso si è ampliato di più negli ultimi mesi, quando si è capita un po' la portata catastrofica di quello che sta succedendo. Però si sta muovendo anche, il mondo dell'arte si sta muovendo anche in maniera molto concreta, cioè penso comunque anche a tutta la campagna che chiede l'espulsione di Israele dalla Biennale, e tantissime raccolte fondi, io ho visto intorno a me tantissime iniziative, forse, esatto, non nei primi mesi, di quello che stava succedendo, però sempre di più negli ultimi tempi. No, io invece, ritornando alla cassetta e alla, diciamo, all'esibizione live che avete fatto, come mai la cover di Last Night and the Strangest Dream di Simon & Garfunkel? Il pezzo non è di Simon & Garfunkel, è di un autore degli anni 50, si chiama Ed McCurdy. È molto famosa la cover di Simon & Garfunkel, esatto, ovviamente. Sì. Perché era un inno pacifista e che ha un testo molto significativo dal punto di vista, appunto, del parlare dell'agreement, della pace, insomma, no? Di come proprio mette anche in evidenza l'aspetto in qualche modo diplomatico dietro la poesia, no? Però dice proprio che il sogno strano è quello di un agreement fra gli stati per non portare più la guerra e la violenza nel mondo, no? Personalmente, visto che quello lo interpreto io, posso dire che è un brano che fin da piccola mi ha sempre parlato tanto e mi ha sempre accompagnato, diciamo, anche nel pensiero di attivismo, no? Quindi mi è uscito, diciamo, in quell'improvvisazione, non era pensata ovviamente, però in quello che stavamo creando nel nostro set con Stefano Pilia, a un certo punto mi è venuto spontaneo di cantare dei versi di quel pezzo, ovviamente in maniera molto meno, come dire, dolce e concordante della versione di Simon & Garfunkel, perché le parole sono un po' sfilacciate e dialogano con tutt'altro tipo di suoni. Non so se questo sta rispondendo alla tua domanda. Sì, era proprio quello che volevo sentirti dire. E invece un'altra cosa, voi avete anche invitato artisti e artiste palestinesi, è stato difficile convincerli e convincerle? Allora, Jules Mood, che è appunto il producer che abbiamo ospitato ad aprile, abbiamo avuto la fortuna di intercettarlo grazie a Tony Cutrone, mai, sì. Che ha molti contatti con la comunità palestinese, ha fatto di recente anche una residenza, ha conosciuto Jules Mood di persona, e abbiamo avuto la fortuna che lui già aveva un visto per arrivare in Europa, e appunto ci siamo coordinati con Tony e altri cioè persone della scena romana che l'avevano già invitato per fare un live a Roma, quindi abbiamo detto uniamo le forze e appunto organizziamo un piccolo tour, no? Cioè è stato, cioè, quindi diciamo, noi abbiamo avuto questo filtro di Tony, che è lui che ci ha proposto questa occasione. È stato un incontro molto bello. Appunto, Jules Mood. Anche umanamente è stato molto bello, sì. Sì, ci siamo stati insieme, diciamo, una giornata e mezzo, veramente poco, però Jules Mood era molto felice anche di vedere tanti piccoli segnali, anche solo girando per Bologna, di quanto la città comunque fosse solidale con la causa. E quindi, cioè, diciamo che non saprei se convincerli o meno, se è una questione di... Cioè, certo, spostarsi per loro in questo momento non deve essere facile. Se posso dare un piccolo ricordo di... Jules Mood all'inizio era proprio sorpreso, no? Di trovare tutti questi... appunto segnali di solidarietà e anche dell'impegno che vedeva nelle persone intorno a questo evento, perché il terzo evento di aprile ovviamente c'eravamo anche già più strutturate, quindi eravamo veramente tante persone anche nell'organizzazione, nell'allestimento dello spazio, quindi lui si è trovato circondato da una grande da un grande gruppo di persone e lui a un certo punto ci ha proprio detto una frase dolcissima: ma allora siete palestinesi anche voi, ci ha detto, no? Che insomma, dal suo punto di vista è stata una dichiarazione di comprensione, no? Molto bella, che noi ci siamo portati dietro anche con emozione, perché in qualche modo ha voluto dire che ha capito il nostro intento molto bene, ecco, solidale. Poi possiamo già forse annunciare quello che sarà il prossimo evento, visto che vedo coinvolto un altro artista palestinese, certo. A fine giugno. Ve lo stavamo per chiedere. Esatto. Questo è stato un evento, diciamo, che è partito diversamente dagli altri, perché diciamo Arci Bologna ha intercettato i nostri eventi nella figura di Marco Pignatiello e ci ha proposto, in occasione della festa dei circoli Arci, che si svolge regolarmente tutti gli anni in Montagnola, ci ha chiesto di curare una di queste serate come Bologna for Palestine. E quindi abbiamo pensato che questa fosse l'occasione di invitare in realtà un progetto a cui guardavamo da tanto, che è Majaz Project, che è un'etichetta discografica a cura di Momin, e non so pronunciare il cognome in questo momento, Zwaitat, che appunto fa un lavoro molto prezioso di archivio in questa, diciamo, sottoprogetto dell'etichetta che si chiama proprio Palestinian Sound Archive, che è da una parte sia un recupero, un salvare proprio materiale audio documentativo di quella che è stata tutta la musica palestinese, che appunto è andata persa o non è andata persa proprio grazie a questo progetto, e poi si occupa anche di pubblicare invece progetti nuovi dell'area palestinese, medio orientale e anche araba in generale. E Momin ha sede in Inghilterra e verrà per l'occasione e farà sia un DJ set appunto che pesca da Palestinian Sound Archive, quindi sia con materiali d'archivio che con materiali nuovi. E poi, d'accordo con noi, è stato molto contento di organizzare prima del concerto una talk che racconta un po' meglio il progetto di quello che possiamo fare noi così per introdurlo, e quindi racconterà proprio di come si intreccia appunto il lavoro d'archivio con il lavoro artistico, con anche la questione identitaria, perché lui discende da generazioni di musicisti beduini, e la musica è sempre stata per lui anche una questione identitaria molto forte, a maggior ragione poi vivendo fuori, gli dà anche l'occasione di poter concretizzare tutto questo in un progetto come quello dell'etichetta. Per noi è stato molto importante perché questo è un momento storico in cui, cioè, dobbiamo sempre ricordarci che la guerra, in questo caso un vero e proprio genocidio, cioè certo, non solo uccide le persone ma distrugge anche le cose e la memoria storica e i simboli e il patrimonio culturale. Quindi agendo noi nel mondo, appunto, chiamiamolo culturale, artistico, quello che possiamo fare invece è cercare di preservare o comunque cioè creare spazi in cui questa distruzione non sia possibile, non sia, no? Sia in qualche modo creare nuovi spazi anche, no? Per questi suoni, in questo caso, che si sta cercando di ovviamente cancellare dalla faccia della terra. Chiedervi questo, c'è stata una risposta anche da parte dei mezzi di informazione rispetto a questa vostra iniziativa? Cioè c'è stato un minimo di avvicinamento anche? La domanda è correlata a un'altra domanda che riguarda quello che è la censura oggi, non solo in Italia, insomma, sappiamo che ci sono tante iniziative nel mondo della musica e delle arti per parlare di questo, di quello che sta succedendo in Palestina, ma avete avuto anche dei problemi magari a cercare di far uscire questo contenuto di questo spettacolo e questo evento e questo discorso che state facendo invece voi? Ma guarda, a livello di promozione, secondo me c'è da un lato la questione dei social, che chiunque cerchi di promuovere iniziative a riguardo o anche semplicemente diffondere video, ripostare i video dei reporter palestinesi, cioè si sarà accorto di questa cosa, cioè che è lampante, palese e ormai documentatissima, che la piattaforma Meta fa di tutto per in qualche maniera ostacolare una diffusione capillare di questi contenuti. Quindi cioè, detto in maniera molto pratica e banale, se posto un contenuto sulla mia musica, i miei dischi, eccetera, ottengo determinate interazioni, e se devo appunto in qualche modo promuovere un evento sulla Palestina ne ottengo un altro numero, oppure comunque si fa molto fatica a bucare in qualche maniera l'algoritmo in questo senso. Quindi, ma questa è un'esperienza che può aver avuto chiunque, cioè appunto, però esistono delle reti, noi ci muoviamo comunque di base in un ambito, adesso per quest'ultimo evento per fortuna siamo molto felici che abbiamo avuto l'invito di Arci, che è una realtà istituzionale strutturata, però tutte le altre cose sono state fatte nell'ambito dell'underground, in cui ci si muove con i propri mezzi. E sì, cioè, c'è anche chi ne ha parlato, Zero Bologna sicuramente sì, ha promosso l'evento. Sì, comunque piccole cose, non abbiamo avuto risonanza su testate, ecco, più grosse, questo sicuramente. Sì, di sicuro. Però la cassetta, c'è da dire vero, che la cassetta è stato un veicolo, forse più degli eventi in qualche modo, perché entrando nei canali, diciamo quelli appunto discografici, che raccontano i dischi del mese o appunto i dischi di solidarietà, in qualche modo siamo anche arrivati su piattaforme grosse. In particolare appunto siamo stati anche inseriti in questo elenco di compilation benefit stilato da Pitchfork. Sì, visto. No, sì. Marco vi faceva questa domanda perché sicuramente forse più nei primi mesi si può dire che il peso della censura nei media andava a neutralizzare qualsiasi tipo di supporto alla causa palestinese, e quindi era difficile esprimere il proprio dissenso sul genocidio in atto a Gaza. Infatti quello che possiamo dire è che la scelta di leggere lo statement che è stato fatto appunto da Italian Art Workers è stato anche per questo motivo, perché nella lettera, che invitiamo a leggere, si trova tranquillamente online, c'è anche un punto che parla proprio di questo, nel senso che anche semplicemente nel mondo dell'arte, artisti e artiste erano state intimidite per appunto non rilasciare dichiarazioni e non schierarsi, e AWI si offriva già appunto all'inizio di dicembre anche come sostegno legale a questo tipo di attacchi e di censura. Quindi anche la scelta di leggere quella lettera era ovviamente per dire: noi facciamo parte di quel mondo dell'arte che è contro tutto questo, e diffondiamo anche il fatto che contro questo tipo di censura bisogna combattere, ecco. Quindi sì, non è... possiamo citare anche un'altra rete a cui abbiamo fatto riferimento, che è Artists Against Apartheid, che è un movimento globale che proprio combatte l'affossamento delle notizie sulla Palestina, e noi ci siamo rivolti a loro per appunto come un po' cassa da risonanza dei nostri eventi e come nostro sostegno alla loro rete, quindi ci siamo ci siamo uniti in questo. E ma in particolare, ad esempio, se uno va sulla loro pagina, c'è anche un piccolo vademecum che appunto invita gli artisti comunque a loro modo a sostenere la causa. E questo è semplicemente un network che online rilancia tutti gli eventi a livello globale, e quindi lo diciamo anche per chi sta pensando magari di organizzare nuovi eventi, li si può scrivere, si può inserire appunto il loro piccolo logo e si viene in qualche maniera ripostati, e al di là appunto dell'atto pratico è un gesto anche simbolico che aiuta noi artisti a sentirci in rete mondiale con tante piccole comunità che si stanno, artistiche e non, che si stanno muovendo in questa direzione e che anche appunto se non finiscono sui principali giornali nazionali muovono la loro rete di solidarietà e parlano della causa e amplificano e ospitano appunto le voci palestinesi. Sicuramente la comunità underground si è mossa, si può dire, in blocco rispetto ad artiste mainstream. Sicuramente. abbiamo visto anche adesso che c'è anche questa campagna, no, di blocco delle celebrities che non si sono ancora esposte. Soprattutto, no? dopo l'uscita di Macklemore, che ha, come dire, un po' rotto il muro delle celebrità mondiali pop con il brano che ha scritto un mese fa, neanche, mi sembra. Sì, e vabbè, poi in Italia ovviamente Gali a Sanremo, abbiamo visto tutti cosa è successo, è bastato, no? Uno statement anche, diciamo, piuttosto banale, non per ridurre, però diciamo non particolarmente aggressivo, per sollevare ovviamente la censura della RAI, quindi la situazione è questa qua. Ovviamente più vai in alto, più ci sono interessi e vai a toccare dei nervi scoperti. Noi ovviamente ci muoviamo nell'underground e quindi passiamo un po' di più sotto i radar, ecco, sicuramente, però ognuno agisce all'interno del suo habitat, mi viene da dire, no? Vi volevamo fare un'ultima domanda, se ci potete dire un pezzo, diciamo, della raccolta o comunque dello spettacolo che può dare un senso riassuntivo. Aiuto, è tutto talmente differenziato che è difficile. Sì, innanzitutto vorrei leggere tutti i nomi di chi ha partecipato, noi due che appunto siamo anche in ordine alfabetico le prime, quindi siamo Laura Newsdegnes e Banti, Daniele Carcassi, anche in rappresentanza del collettivo Minus, Fera, anche in rappresentanza del collettivo Undicesima Casa, Simone Grande, Ikbim Bob, Kat dalla band So Beast, Carlo Marrone, Leonardo Melchionda, Dario Moroldo, Guglielmo Pagnozzi, Stefano Pilia, Sly sempre dal duo So Beast, Ceci Stacchiotti, Giulio Stermieri, Andrea Trona, che ha anche curato con noi la selezione e i mix della cassetta e la fonica il giorno dell'evento insieme a Ikbim Bob e Reda Zain. Quindi eravamo tantissimi, è molto difficile scegliere delle tracce perché sono anche molto brevi, quindi se la domanda è mirata a mandare qualcosa in onda, io direi mandatene più di una, certo. Che sono solo 2 minuti. È proprio un discorso collettivo, certo, che si snoda, secondo noi, in una maniera anche molto interessante e varia. Quindi non sappiamo rispondere a questa domanda. Però noi vi ringraziamo tantissimo per aver, diciamo, presentato la cassetta e lo spettacolo, per aver fatto sentire la vostra testimonianza qui in radio. Quindi vi ringraziamo. Sì, vogliamo citare, siccome appunto mi hai fatto venire in mente che è uno sforzo collettivo veramente grande, di sicuro ci dimenticheremo qualcuno, però riguardo alla cassetta, che l'artwork è stato curato da Maria Sole Barzacchini e da Fera, e che la registrazione è stata curata da Daniele Lambertini, e il master è stato fatto da Ivan... Pijedic, aiuto! Scusaci Ivan, non sapevo leggere il tuo cognome. E, stiamo dimenticando qualcuno, vabbè, magari si può dire che abbiamo un ringraziamento anche verso, diciamo, chi ci ha fatto da filtro con il contatto del reporter Mansour Schumann, che ci ha permesso in quel momento poi così critico in cui si vedevano solo gli aiuti umanitari bloccati al confine, quindi era tutto un sì, ma doniamo, ma a che serve, invece aver in questo contatto tramite due amici che sono Marta e Valerio Vitalini, che per motivi di vita appunto hanno incrociato la Palestina, Valerio appunto ha fatto attività di volontariato, è stato lì un periodo, abbiamo avuto il contatto di Mansour Schumann diretto, con cui noi eravamo in contatto giornalmente su WhatsApp, quindi tramite lui abbiamo potuto anche rendere molto efficace la raccolta fondi, perché erano proprio soldi che dopo 3 giorni sono arrivati tramite un giro assurdo che non stiamo a spiegare, tra la Giordania, cose così, però siamo arrivati a mandarli veramente a Gaza, e questo è stato molto importante, quindi un ringraziamento va anche a loro. Vabbè, a Maple Death, ovviamente certo. Nella figura di Jonathan Clancy. Che... E ovviamente anche le realtà come DAS e Gravinsky Point, che hanno sostenuto sia il concerto, l'evento, che la cassetta. Sì. E con questi ultimi ringraziamenti non mi sono dimenticata l'ultima domanda che hai fatto. No, in realtà non era una domanda, ci stavamo ringraziando vicenda. No, vi stavamo ringraziando. Allora noi finiamo ringraziando voi per questo invito, perché ci ha fatto molto molto piacere. Grazie ancora, allora. Grazie. Allora consigliamo a tutte e tutti di seguire i vostri canali social. Assolutamente. Laura Agnese, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Thank you. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Sono Salvatore e ritorniamo a parlare di Palestina. Con me c'è Marco che saluto. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Stiamo seconda parte dello speciale, siamo con Andrea Pomini, che è il fondatore e direttore della Lobot Records and Buttons, che ha curato e pubblicato una raccolta di brani a sostegno della Palestina dal titolo We Will Stay Here, Music for Palestine, uscito in digitale ed in cassetta ed è stato pubblicato il 3 maggio del 2024 e che trovate sulla pagina Bandcamp dell'etichetta. Io saluto Andrea. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Grazie per essere qui con me e Marco a Radio Quar per presentare questo importantissimo progetto che poi ne ha dato risalto anche Pitchfork. Sì, Pitchfork internazionale, insomma, DJ Mag, diverse piattaforme, insomma, hanno, nei limiti di quanto è concesso dalla censura esplicita o meno che l'argomento sta subendo ormai da ottobre, tanti, insomma, hanno rilanciato la cosa, per fortuna, ripeto, nei limiti di quanto è concesso fare. Ecco. Io ti faccio la prima domanda per iniziare. Qual è la genesi di We Will Stay Here, Music for Palestine? Ma la genesi è molto semplice. Fin dai primissimi giorni dell'attacco israeliano su Gaza, ho visto, ho testimoniato questa cosa, un grandissimo silenzio da parte di artisti italiani e non, adesso limitiamoci all'Italia, ma non solo, che normalmente sono molto attivi, molto presenti, molto vocal, come si dice in inglese, su tantissimi argomenti, non hanno problemi a prendere posizione su nulla, e posizioni che io più delle volte condivido, su questa questione silenzio totale, quindi sposando la narrazione dominante, che è poi quella che fa comodo a che tutto questo succeda, cioè è un argomento complicato, non è, lasciamo parlare chi ne sa più di noi, ci sono torti ragioni da ambe le parti, ma però il 7 ottobre, tutte queste cose che basta, come dire, avere una infarinatura storica sommaria per capire che, insomma, non sono, che crollano, insomma, nel giro di poco. Noto invece che qualche artista non ha timore di esporsi da subito e prende posizione, artisti che mi piacciono e che, en passant, noto, fanno soprattutto parte del mondo di quella che per comodità chiamerò elettronica. Oppure per esclusione, diciamo, non dal mondo del rock, anche indipendente, anche in qualche maniera antagonista, ma soprattutto dal mondo che è quello tra l'avanguardia e l'elettronica, che è un mondo che molto spesso, poi col seno di poi, si può dire che si trova molto spesso su posizioni molto più avanti rispetto alle posizioni di retroguardia che spesso assume il mondo del rock, ma questa è una notazione a margine. È proprio il vedere questi artisti prendere posizione che mi fa venire in mente di far qualcosa, quindi l'idea me la danno loro e io subito penso, perché non fare qualcosa con questi artisti che mi piacciono, anche con pochi di loro, perché sono pochi quelli che io vedo. I primi due che vedo sono poi due che sono nella compilation, sono Agostino e Still. E quindi dico, ma facciamo una cosa anche solo di 6 pezzi, una cosa piccola. Però mi interessa questo, che la musica di questa compilation non sia la classica compilation, ok, facciamolo uscire prima possibile, più nomi possibili, e un artista pesca nell'hard disk il pezzo di 4 anni prima che aveva scartato da tutti i suoi dischi precedenti e dice, vabbè, ti do questo. Allora, ovviamente, sono contento, mi fa piacere e ti ringrazio. Però mi interessava altro, cioè mi interessava fare qualcosa che reggesse artisticamente, due, fosse una testimonianza artistica di arte creata in tempi di genocidio. Quindi io ho chiesto agli artisti, io voglio che mi facciate un pezzo adesso, con in testa queste immagini, questi suoni, queste cose che stanno succedendo, voi che siete sensibili a questo argomento, mi producete un pezzo con queste cose in testa, quindi su commissione quasi, no? Mi interessa questo, tanto che chi non poteva farcela mi ha detto guarda, mi piacerebbe molto, ma sono troppo impegnato, non ce la faccio. E l'ho apprezzato invece di dirmi sì, ok, ce la faccio, e di andare a pescare appunto un reperto sepolto nell'hard disk, che poi magari era bellissimo lo stesso. E quindi diciamo la molla iniziale è stata quella, ed è stato molto bello perché poi partendo da questi due artisti c'è stato un effetto valanga molto interessante, sia di loro che mi dicevano perché non chiedi a lui o a lei, perché guarda che sicuramente interessato, oppure io che gli chiedevo ma non è che conosci quel tale o quella tale che mi sembra che mi piace molto e potrebbe, e vedo che è attivo, sì certo, ti passi i contatti eccetera, oppure guarda che c'è il mio ragazzo che fa il produttore e ha appena fatto un pezzo proprio con quello in testa, ti va di ascoltarlo il pezzo? Certo che mi va. Quindi così facendo siamo arrivati a 14 e i tempi ovviamente si sono allungati, perché questa è una cosa che comincia a fine ottobre e esce a maggio, per cui c'è chi mi ha dato il pezzo in 2 giorni di getto e c'è chi me l'ha dato in 6 mesi, 5 mesi, però riflette secondo me poi bene, poi ne parleremo, insomma la varietà sonora e umana della compilation, e nello stesso tempo secondo me contribuisce anche alla sua essere, come dire, al fluire bene come un album, pur essendo prodotto di 14 musicisti diversi. Ecco. Senti Andrea, ci presenti un po' gli artisti che sono presenti in questo disco? Sì, dunque, allora, sono, come dicevo, diciamo se vogliamo, se vogliamo individuare un ambito macro, è un ambito che sta tra l'elettronica, più o meno si va dalla pista da ballo, che è una pista da ballo però diciamo non banale, all'ambient noise sperimentale, a tutto quello che ci sta in mezzo. Gli artisti sono molto italiani, ma non solo. Ci sono, guarda, vado, i primi due sono stati Agostino e Still. Agostino è un produttore musicale pugliese che sta a Londra, ha lavorato molto sui suoni del sud Italia, della pizzica in particolare, però incrociandoli con la techno, e per la compilation ha fatto un pezzo invece, una, diciamo, ha messo una base ambient su un'intervista di Mixer di Giovanni Minoli del 1983 a Ilarion Cappucci, che era l'arcivescovo di Gerusalemme, accusa, arrestato perché l'hanno trovato in una BMW piena di armi e di esplosivi, accusato di essere un fiancheggiatore, finanziatore dell'OLP, accuse che lui assolutamente non respinge al mittente, anzi se ne fa un, come dire, un vanto. Still, abbiamo detto, un produttore che sta a Milano, fa una dancehall molto mutante, strana. Anche lui fa un pezzo molto bello campionando una manifestazione di donne marocchine di questi mesi. A tutti ho detto, come suggerimento ma non come obbligo, se volete lavorate anche sui campioni vocali che in questi giorni stanno venendo fuori, stanno arrivando dalla Palestina, eccetera. Molti lo hanno fatto, non tutti, e devo dire che l'hanno fatto in maniera non banale. È facile scadere in qualcosa di banale in questi casi. Invece devo dire che tutti hanno lavorato in maniera molto originale. Sara Persico apre il disco e lo fa con un pezzo ambient molto teso, con delle voci, dei rumori. Agnatu, anche, che è un produttore siciliano, anche lui che sta a Londra, ha usato delle voci di Gaza, ha campionato addirittura il Concerto, un gruppo italiano, un pezzo dei primi anni 90, uno dei primi gruppi etno rock italiani. Ha registrato addirittura in Palestina, in una residenza che lui ha fatto a gennaio, quindi questo gennaio, gennaio 24, lui era a Betlemme, Ramallah, Betlemme, zone limitrofe, per una residenza artistica, ha registrato lì con un flautista palestinese che si chiama Osama Abu Ali. Borut, un produttore italiano che sta in Spagna, ha fatto uno dei pezzi invece più dance, tra virgolette, dell'album. Assiuti è un produttore egiziano che sta a Berlino, che ha usato una canzone folk palestinese in una maniera molto interessante, in un contesto noise, drum and bass. Bono Burattini, sono un duo di Bologna, batterie e sintetizzatori, che esce per la Maple Death, che è un'etichetta di Bologna, per cui esce anche Mai. Holy Tong sono stati una penultima aggiunta, in realtà sono arrivato a un certo punto che ho visto Holy Tong e ho detto, ma perché non ho chiesto agli Holy Tong, che mi piacciono tantissimo, ed è stata una sorpresa perché ho sentito Valentina Magaletti, mi ha detto certo, va bene. E quando mi hanno mandato il pezzo, ho scoperto con grande piacere che era una versione dal vivo allungata di un pezzo di un'ora e più, con ospite da Lide St. Paul, che è una performer e cantante di Bristol, e quindi c'è stata, diciamo, un'aggiunta a sorpresa. Trifase, un produttore egiziano molto bravo, che mi ha mandato anche lui un pezzo molto da club. Suso La Roche, una produttrice, artista, sta in Inghilterra, di origine libanese egiziana, anche lei ha fatto uno dei pezzi secondo me più interessanti, quasi pop, della raccolta. E Hand, un produttore torinese di tra house e cose un po' più sperimentali. Not Waving è un mio ex compagno di gruppo, suonavamo insieme nei 2000 nei Disco Drive, un trio punk, funk, con cui abbiamo fatto anche alcuni dischi. Lui adesso sta a Londra da tanto, fa il produttore, ma ha fatto il pezzo che chiude l'album, che è un pezzo per me eccezionale, una delle robe più belle che ha mai fatto, e non è l'unico ad aver fatto una cosa che per me sta tra le cose migliori che hanno fatto. E Not Waving stesso collabora con Cosmo, che è, se vogliamo, il nome in Italia più famoso di questa compilation. Not Waving ha prodotto l'ultimo album di Cosmo. Cosmo è, direi, dopo Gali ed Argento Amico, l'artista italiano più famoso probabilmente, che si è esposto senza problemi dai primi giorni sulla questione palestinese, senza paura di nessun genere. Questa è una cosa che a me ha fatto moltissimo piacere, e chi l'ha visto anche in TV al concertone del primo maggio ha fatto da eccezionale lancio per la compilation, che poi è uscita due giorni dopo. È stato il miglior lancio pubblicitario che potessimo avere. Hanno fatto un pezzo insieme, Cosmo e Not Waving, cofirmato, che è un pezzo molto strano però molto interessante, e ha fatto, ovviamente, per la compilation è stata una cosa eccezionale. Oltre ad avere un bel pezzo di Cosmo, ha contribuito moltissimo. Dicevo, il piacere mio è stato fare poi mettere tutti questi pezzi, anche molto diversi, in una scaletta coerente che fluisse, e devo dire che sono molto contento che in tanti mi hanno detto: guarda, sembra un album proprio che scorre bene. Sono stato facilitato, dicevo, dal fatto che i pezzi mi sono arrivati uno per volta e non tutti insieme, per cui ho avuto tempo di metabolizzarli, e quando me ne arrivava uno nuovo io avevo già una mini scaletta già pronta e lo inserivo lì dentro, e quindi, insomma, si è creata per accumulazione uno per volta, e devo dire che mi piace come suona, ecco, devo dire, c'è una bella narrazione, procede bene, ecco. Invece gli artisti e le artiste che hanno partecipato a We Will Stay Here, come si sono approcciate, diciamo, a questo progetto, sia prima che dopo la pubblicazione? Ma io ho notato un grande entusiasmo, grande piacere di partecipare a una raccolta fondi. Ecco, ricordiamo, la raccolta va a beneficio di Medical Aid for Palestinians, che è un'organizzazione inglese tra le tante che lavora non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, e per innanzitutto fornire assistenza medica. Tra parentesi, noto che già il fatto che esista un'organizzazione che si chiama Medical Aid for Palestinians dice già molto su come vanno le cose, qual è la situazione da quelle parti, no? Medical Aid for Israelis non mi pare esista. Ci sono approcciati con grande entusiasmo e grande voglia di mettersi alla prova anche su questa cosa, e devo dire che tanti di loro, secondo me, hanno fatto brani che stanno proprio al vertice della loro produzione in assoluto. Not Waving in primis, che con il pezzo che chiude l'album, che è eccezionale, con questi due momenti, prima uno molto tecno, molto teso, e poi questa coda invece molto malinconica col pianoforte e i rumori, per cui, insomma, e poi dopo tutti quanti ovviamente hanno condiviso, rilanciato sui loro social media, facendo ovviamente un gran bene alle vendite. Cosmo in primis per l'Italia, ovviamente, perché quando Cosmo fa una storia lanciando questa compilation, immediatamente arrivano gli ordini proprio a nastro, proprio, e devo dire che questo ha fatto molto bene, ma tutti quanti sono stati incredibilmente attivi e hanno supportato la storia di Cosmo, ovviamente, per le vendite della compilation, che tra l'altro, ricordo, è uscita anche su maglietta. Quindi compravi la maglietta e avevi il download dei pezzi. E una storia di Cosmo ovviamente fa molto bene alle vendite di questa compilation, ma tutti quanti sono stati molto attivi nel supportarla, nel rilanciarla. Si è creata una bella comunità di artisti intorno a questa compilation, ecco, sia di gente che prima si conosceva e collaborava, sia di gente che si è conosciuta in questa occasione. Insomma, è stata una bella esperienza, ecco, e lo è tuttora. Andrea, scusami, sbaglio o sono sold out le cassette? Allora, le magliette sono sold out, ne abbiamo fatte 200 e sono finite. Le cassette sono quasi sold out, ne abbiamo fatte 200 anche di quelle, e ne ho qui tipo una ventina ancora, per cui stavo ragionando se è il caso di farne un'altra tiratura di 100. Il digitale è ovviamente ancora disponibile. Siamo più o meno tra maglietta, cassetta e digitale sulle 600 copie in tutto. Okay. Quindi diciamo la raccolta fondi è ancora aperta. La raccolta fondi è ancora aperta. Pensavo adesso, quando finisco, o adesso prima di andare in vacanza, pensavo di fare il primo bonifico grosso. Siamo intorno ai 6.000 euro più o meno, quindi una cifra, vuol dire, molto buona. E pensavo di fare il primo bonifico adesso all'inizio di luglio. Poi la raccolta ovviamente resta sempre aperta, perché il digitale resterà sempre disponibile. Mi piacerebbe renderlo sempre disponibile anche su cassetta, cioè di avere sempre disponibili anche le cassette. Ho pensato ovviamente se farlo anche in altri supporti, ma il vinile bisognava fare un doppio. E fare un doppio vinile è una spesa, secondo me, che toglie energia e fondi. Poi magari li vendevo tutti lo stesso, però li dovevo vendere a 50 euro l'uno, cioè iniziava a essere caro. Il CD invece purtroppo non se lo compra più nessuno. Io avrei fatto molto volentieri un CD, ma non se lo compra più nessuno, quindi abbiamo fatto la cassetta, che però devo dire sta andando molto bene. Anche il digitale sta andando molto bene. E senti una cosa, avete immaginato anche un evento futuro di presentazione di... Allora, di quanto è uscito poi? Ho fatto varie interviste, eventi no, però in questi giorni stiamo combinando per un evento a Roma alla fine di luglio, con un talk. Adesso questa è proprio un'anticipazione, dovrebbe, non è ancora confermato, però dovremmo fare un talk con Mai, quindi io e lui anche, che ovviamente racconterà ben più interessante di quello che racconto io, l'esperienza di questa residenza che ha fatto in Palestina, che è ritornato a fare una seconda il mese scorso, tra l'altro, e un DJ set in tema ancora da capire, per cui insomma seguite la pagina dell'etichetta e ci saranno certo aggiornamenti, però dovrebbe esserci un evento a fine luglio a Roma. Per il resto non abbiamo fatto nulla, mi sono concentrato sulla produzione e sulla spedizione, perché insomma fare 250 pacchetti tra magliette, anzi di più, fare un 300 pacchetti tra magliette e cassette, andare alla posta a spedirli è stata una bella esperienza, ecco, pure quello. Senti Lame, ti volevo chiedere ancora una cosa. Rispetto all'esposizione su questo tema così importante della Palestina, e tu dicevi che insomma sentivi l'esigenza di doverti esprimere, di dover far esprimere le arti, e c'è qualcosa invece che tu pensi che non... qualcuno che si è tirato fuori, qualcuno che non ha, che non sta neanche esprimendo invece, non dico solidarietà, ma qualcosa che insomma ti saresti aspettato che sarebbe accaduto e invece non è accaduto per niente? Ma guarda, è inutile far dei nomi, nel senso che si fa molto prima... No, ovviamente senza fare nomi, però insomma... Si fa molto prima a fare i nomi di chi si è esposto, perché bastano un paio di mani. Allora, io parlo di nomi grossi, nomi certo, che spostano opinione, sentimenti, ok? Penso che, tolti gli esempi eclatanti che abbiamo visto a Sanremo di Gali, di D'Argento Amico, tolto Cosmo, che comunque è uno grosso, diciamo non grossissimo, ma grosso, tolto qualche, mi pare, parliamo di grossi, mi pare Fiorella Mannoia abbia fatto, preso delle posizioni, nei primi tempi ricordo che anche Mischeta e la rappresentante di Lista, mi pare, c'erano state delle prese di posizione, Shade, che è un rapper che ha fatto un freestyle bellissimo, però Inoki, mi pare, un altro, che però... Capito, stiamo parlando di uno di nomi non mega, e quindi chiaramente adesso faccio un esempio, ok? Mi sembra che in qualunque altra situazione, di fronte a 40.000 morti, di cui la metà o quasi bambini, qualunque fosse, ammesso che ci fosse una ragione, ammesso e non concesso che ci fosse una ragione per farlo, quello che ne penso io che non c'era, ma ammesso e non concesso che ci fosse, mi sembra veramente quasi più faticoso non prendere la posizione che prenderla, anche con un post molto semplice tipo non basta ammazzare i bambini, non chiedo un'analisi geopolitica sulla Nakba o sulle origini del sionismo. Il primo che mi viene in mente, Maligabue, per esempio, gliene frega qualcosa. Mi sembra che sia quasi più complicato il ragionamento, dovrei far qualcosa, però attenzione, poi magari, quindi allora non dico niente. Ed è probabilmente una cosa neanche, non c'è neanche qualcuno che dice no, non ditelo. È come un sentire, come tira l'aria intorno, tira che non si dice niente, allora non dico niente neanch'io. In una situazione in cui i telegiornali tuttora non dicono Palestina, ma dicono Medio Oriente. E ci sono proprio ci sono dei diktat su parole che si possono usare. chiedo, ma tutti i grandi della musica e del cinema, io mi occupo di musica, quindi resto alla musica, ma come mai? Cioè, evidentemente o hai paura, o rischi veramente, o hai paura di rischiare qualcosa, o vedi che l'aria che tira è quella e quindi ti accodi all'aria che tira. E non, per questo apprezzo, ovviamente, Gali, eccetera, e apprezzo molto Cosmo, che veramente se ne è sbattuto. Io adesso, il 1° maggio a Cosmo ha rischiato di costare molto, al di là del fatto che in Rai non lo rivedremo mai più fino a quando non sarà in pensione, ma so che ha rischiato di costare molto il 1° maggio a Cosmo, ma lui l'ha fatto lo stesso, perché è una situazione in cui, a mio parere, ci sono delle esigenze umane, prima di tutto, no? Prima ancora che politiche. Non puoi derubricare quello che sta succedendo in Palestina come ma politica, quindi beh, complica. Non è politica quando ammazzi 40.000 persone, blocchi gli aiuti e riduci alla fame gli altri che stanno vivendo lì. Qualunque cosa ti sia successo, e ammesso e non concesso che tu abbia anche ragione, ma poi non entriamo nell'argomento, però tu sei uno Stato supposto democratico che deve rispondere a delle... Quindi siamo di fronte a un piano che è quello di chiudere i conti definitivi del 1948 o prima, una volta per tutte. Allora che nessuno o quasi abbia niente da dire questa cosa, ancora a ottobre, a fine ottobre, a novembre, ancora fresca, diciamo, la memoria del 7 ottobre, allora hai paura, dice ok, così, stiamo a fine giugno e ancora non ti è venuto in mente niente da dire, non ti è venuto neanche solo un oh, però basta. Neanche questo. Diciamo anche i mezzi di informazione non hanno dato spazio a nessuna iniziativa di solidarietà. E, diciamo, allo stesso tempo, peggio ancora, nessuna esposizione del mondo della musica, delle arti, della cultura che si è esposta e ha affiancato la causa palestinese, quindi si dovrebbe affrontare il discorso sul peso della censura nei media e nello stato attuale che neutralizza qualsiasi tipo di operazione di supporto alla causa palestinese che si oppone al genocidio. Quindi poter esprimere il proprio dissenso proprio sul genocidio in atto a Gaza sembra inaccettabile per l'opinione pubblica, e quindi si respira proprio una brutta aria di censura, ma al tempo stesso anche di autocensura. Sì, certo, probabilmente è anche un'autocensura preventiva di tanti. Allora io faccio l'esempio, mi viene un esempio, un paragone che apparentemente non c'entra, che però quando, che ne so, faccio un paragone col calcio, io non so se voi seguite il calcio, io seguo il calcio, quando si dice la sudditanza psicologica degli arbitri verso le grandi squadre, non c'è bisogno spesso che sia il dirigente della grande squadra che vada dall'arbitro e gli dica ehi, mi raccomando, non ci fischiare il rigore contro. È l'arbitro stesso che già sa che se fischierà il rigore contro quelli forti e potenti poi andrà a finire, avrà dei problemi. Quindi non penso che ci sia stato qualcuno che dalle case discografiche, dai network, abbia detto ai grandi artisti italiani sulla Palestina dovete star zitti, ma che siano in primis loro che abbiano deciso di star zitti. Intendiamoci, magari anche perché pensano che tutto sommato Israele abbia ragione, eh? Occhio, perché non pensiamo che chi fa o ascolta musica che ci piace sia necessariamente poi una persona che ci piace, per cui probabilmente ci sono anche artisti e musicisti che tuttora al 21 di giugno pensano che tutto cominci il 7 ottobre, per esempio. Per cui la storia purtroppo non tutti la sanno, e questa cosa per tanti, per fortuna, è servita e sta servendo per saperla, per documentarsi, per imparare. Io stesso ho imparato tante cose che prima non sapevo, davo per scontate, e devo dire che ne sono uscito più radicale di prima, se devo dire, più radicale di quando facevo le superiori. E altri invece probabilmente non hanno avuto l'impulso di documentarsi, anche perché tutto sommato parliamo di posti del mondo in cui quello che ci è stato raccontato è ma lì è sempre complicato, ma lì c'è sempre casino, ma i palestinesi sempre così. Quindi dice ma sì, lì è sempre così, poi tutto sommato valgono di meno, sono oscuri, sono poveri, chi se ne frega, no? Per cui sì, c'è proprio una cosa, e adesso quello che ho paura che sia entrato in gioco sia l'abitudine, cioè è già talmente tanto che va avanti che sì, non ne parliamo neanche, non serve neanche più parlarne tanto, e intanto Israele continua ogni volta a spostare l'asticella di quello che si può fare un pochettino più in là, no? Però, ma sì, dai, adesso andiamo tutti in vacanza, ne riparliamo a settembre, no? Come si fa in Italia per tutto. Senti Andrea, invece guardando fuori dai confini italiani, dove per fortuna qualcosa succede, ti è capitato di confrontarti rispetto a questo progetto con altre cose che sono state realizzate in questi mesi? Mi viene in mente un po' quella dei Massive Attack. Sì, ho seguito personalmente, diciamo non mi sono confrontato direttamente con nessuno, però ho seguito, ho visto con piacere alcune cose, ho visto con piacere che per esempio in Irlanda, forse perché hanno alle spalle 6, 7, 8 secoli di dominazione coloniale di altri, l'argomento Palestina è un argomento molto, come dire, lo capiscono e sono sensibili, e gruppi anche molto famosi non hanno problemi a esporsi. E altri posti invece, come per esempio la Germania, c'è una situazione ancora più repressiva che in Italia, e i motivi mi sembrano evidenti. O sono in contatto con tanti in Inghilterra, che invece mi dicono in Inghilterra ci sono sempre tante manifestazioni, tante cose, per cui ti dico quello che mi ha detto Trifaz, che è questo produttore egiziano che è nella compilation, che ho incontrato da poco perché ha suonato a Torino da poco, e lui mi ha detto a costi molto alti la causa palestinese non è mai stata popolare come in questo momento nella storia, cioè siamo a un punto in cui da un lato c'è una tragedia in atto, dall'altro la causa palestinese è fortissima in questo momento, non è mai stata così forte. E quindi questa è una cosa di cui tener conto comunque, e non ha mai raccolto così tanta solidarietà, soprattutto non è un caso tra i giovani, che sono quelli che non hanno niente da perdere in termini di posizioni, rendite, posizioni lavorative, reti relazionali, cose che possono venire essere compromesse da una presa di posizione che io non chiamo neanche pro-Palestina, perché io non sono pro-Palestina a prescindere, è pro-umanità, pro-giustizia. Cioè, se a parti invertite c'erano gli israeliani, io ero pro-Israele, ma non perché sono pro-Israele a prescindere, la maggior parte degli stati e poi delle persone ragiona così: prima vedo chi è mio amico e chi non è mio amico, poi viene cosa questo amico fa o non fa. Per me prima viene cosa questo fa o non fa. Sei mio amico, peggio ancora, gli dirò: tu sei mio amico, però sta cosa qui non la devi fare. Non sei mio amico, quindi guarderò con più indulgenza cosa hai fatto, oppure addirittura mi inventerò delle ragioni per dire che hai avuto ragione a farlo. Ed è una cosa che poi io mi trovo anche in difficoltà a spiegare ai miei figli, le regole non sono uguali per tutti, e che la maggior parte, che il mondo funziona soprattutto giudicando, guardando prima se uno è tuo amico o se è tuo nemico, e poi guardando cosa ha fatto. Questo secondo me è una delle grandi lezioni che purtroppo questa situazione ci sta dando e di cui dovremo fare i conti, per esempio alla prossima guerra. Come ci comportiamo alla prossima guerra? Guarderemo dov'è, se sono biondi, bianchi, eccetera, sarà un discorso, se sono scuri, brutti e cattivi sarà un altro. Andrea, noi ti facciamo un'ultima domanda. Secondo te, nei prossimi mesi, cosa possiamo fare per opporre una maggiore resistenza? Allora, non lo so, penso che ognuno fa secondo quello che può fare, quello che vuole fare, quello che si sente di fare. Io stesso in questi mesi ho avuto degli stati d'animo molto altalenanti, che poi sono resi bene anche dalla compilation, secondo me, perché c'è la rabbia, la tristezza, l'euforia, l'energia, l'euforia forse è una parola grossa, però è difficile, ognuno fa quello che può. Devo dire che in una situazione in cui questa cosa viene totalmente silenziata, anche solo far vedere da che parte si sta, mettersi una spilla, una maglietta, una kefi, un braccialetto, un qualcosa, già è qualcosa. Non aver paura in famiglia, sul luogo di lavoro, con gli amici, anche di rompere delle relazioni. Per me questo è quello che sta succedendo, purtroppo è una cosa che stiamo testimoniando in vita. Io la Seconda Guerra Mondiale in vita non l'ho testimoniata, purtroppo è una cosa che stiamo testimoniando e che per molti, me compreso, è uno spartiacque molto deciso. Io difficilmente alla fine di tutto questo riuscirò a guardare con gli stessi occhi una persona, anche se amica, familiare, eccetera, che se n'è sbattuta o ha preso posizione per Israele o se n'è sbattuta o ha fatto finta di niente. Mi dispiace, però sono delle cose troppo grosse queste qua. Quindi secondo me la cosa fondamentale è non aver paura innanzitutto di far vedere come la si pensa e di tenersi pronte delle risposte per le domande, che poi alla fine sono sempre quelle: condanni il 7 ottobre, però Hamas, insomma le solite cose. Non aver paura anche di sembrare, per esempio in tanti inorridiscono quando provi ad azzardare un paragone tra la resistenza palestinese e la resistenza italiana. Guai a toccare questa cosa. E invece, cose stanno così. Per cui intanto non aver paura. Poi se si è giovani, non si ha famiglia, non si ha mille altre cose a cui tenere dietro, andare a manifestare, bloccare, fare tutto il possibile, ovviamente più si fa meglio è, certo, però poi una ricetta non ce l'ho. Ognuno in coscienza sa cosa fin dove riesce ad arrivare oggi, fin dove vuole arrivare domani, ogni giorno è diverso, però l'importante è tenersi sempre accesi, vigili. Andrea, noi ti ringraziamo per aver presentato We'll Stay Here, Music for Palestine. Veramente grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Sentire anche la tua testimonianza, ecco. Grazie a voi. Ricordo l'indirizzo del sito dell'etichetta, così chi vuole può. Sì, certo. Dico quello semplice, che è www.love, come amore, love, trattino del meno, boat, come barca, .org. C'è tutto scritto lì e da lì proseguite. Andrea, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. A voi. Ciao, buona giornata.